Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Cara redazione, mi chiedo come mai in Italia i giornali e i media modificano le notizie facendo arrivare ai cittadini un'immagine distorta della realtà. Mi chiedo come si faccia a chiamare pacifisti persone che assalgono i militari con spranghe di ferro durante un controllo. Mi chiedo con che coraggio queste persone possono fare le vittime quando sono loro ad aver iniziato l'aggressione. Eppure queste foto sono in internet ovunque, tranne che nei giornali italiani. Quando i nostri mezzi di informazione ci daranno notizie veritiere e non notizie con sfondo politico? Stefano. Gentile Stefano, l'informazione assolutamente oggettiva non esiste, direi per fortuna. A declinare le 5 famose domande: chi, dove, quando, come e perché, domande le cui risposte stanno alla base di ogni articolo o di ogni servizio, c'è sempre una persona con la sua sensibilità e la sua professionalità. Ma veniamo al caso che lei cita. La qualifica di pacifisti risponde essenzialmente a quello che avevano annunciato gli stessi organizzatori del convoglio di navi, un convoglio che era stato presentato come portatore di aiuti umanitari. La risposta violenta ai controlli israeliani e la successiva risposta che ha provocato 9 morti ha indubbiamente cambiato la natura dell'iniziativa, ma anche per un'esigenza di chiarezza e di continuità informativa i giornalisti hanno continuato a parlare di pacifisti. I fatti, comunque, sono stati descritti con chiarezza e le successive fotografie hanno dimostrato la risposta violenta dell'equipaggio della nave. E i fatti restano fatti, anche se poi ognuno deve essere libero di dare l'interpretazione politica che ritiene più giusta. Ho una ditta individuale. Sono consulente commerciale per una serie di aziende del Nord Italia che operano nel settore tessile. Per me, anche se lo desiderassi ardentemente, fare del fatturato in nero sarebbe del tutto impossibile, già che le aziende richiedono note spese e fatture per ogni singolo centesimo. Per quanto mi riguarda, non voglio nemmeno estrapolare aspetti singoli da tutte queste normative fiscali che si accavallano da decenni, ormai su base quasi annuale, indipendentemente dal governo che questo schifo di paese si ritrova. Dal punto di vista personale, gli studi di settore e tutte queste costanti modifiche che si susseguono da anni hanno come risultato pratico quello di farmi allontanare sempre più. Mi portano ad una alienazione personale da tutto ciò, semplicemente perché non le capisco e perché non ho il tempo di dedicarmici per venirne a capo. Delego tutto al commercialista e, ciecamente, subisco il furto e pago. Il mio giudizio personale è che sia sbagliata la posizione con cui storicamente il governo si pone dinanzi al contribuente, di qualsiasi natura esso sia. I nostri governi altro non fanno che continuare progressivamente ad aprire di più il rubinetto senza voler mai mettere mano ai buchi del lavandino. Da dove esce, si spande, cola e percola acqua da tutte le parti. Si mostrano sempre risoluti ogni qualvolta si vara una nuova manovra fiscale, per poi latitare su quasi ogni aspetto che ne deriva, sicuramente in vaste aree del paese. L'evasione fiscale sarà pure un problema in Italia, ma anche la totale eliminazione subitanea della stessa non risolverebbe affatto i problemi, definiamoli contabili, di questo Stato, schiacciato da una criminalità organizzata onnipotente da un lato e da 2/3 del paese quasi del tutto improduttivi e a rimorchio di mezza dozzina di regioni del nord dall'altro. Non si ha neanche il coraggio di ammettere come stanno le cose in questo paese. L'evasione fiscale è il paravento dietro cui nascondersi, il pretesto che ogni governo che abbiamo avuto ha utilizzato ogni qualvolta si è trovato, per un motivo o per un altro, nella necessità di togliere soldi ai propri cittadini. Luca. L'altro giorno mi è arrivata una raccomandata dall'Agenzia delle Entrate che mi dice che sono congruo, cioè dichiaro quanto dovrei dichiarare stando alle mie caratteristiche. Ma non sono coerente, cioè, pur essendo giusta la differenza tra incassi e costi, sono i primi a non essere giusti. In pratica, lo Stato non solo vuole decidere quanto io devo guadagnare, ma anche come. Dove andremo a finire? Marcello. Egregio direttore, al contrario degli altri media, il Sole 24 Ore ha dato ampio risalto alla situazione delle forze armate europee, accennando anche allo stato particolare di quelle italiane. Sappiamo tutti che questo è un periodo duro di tagli in tutta Europa, ma a mio parere la pubblica opinione ha il diritto di sapere qual è la situazione precisa in Italia. La differenza è che da noi i tagli sono cominciati da ben prima della crisi e sono continuati costantemente sotto i governi Berlusconi. Se negli altri stati dell'Unione Europea paragonabili all'Italia hanno l'effetto di diminuire le risorse a disposizione, mantenendo comunque le forze in efficienza, da noi sono ormai arrivati al punto di creare l'abolizione de facto delle stesse. Le forze armate sono sul punto di diventare quello che è il più sfrenato segno di certi estremismi politici. Un semplice carrozzone statale per il mantenimento di disoccupati, senza capacità operativa reale. Non esagero, perché ormai mancano i fondi per l'operatività di base. Non ci sono soldi per l'addestramento, per la manutenzione dei mezzi, per gli approvvigionamenti di munizioni e carburante, e addirittura cominciano a mancare anche quelli per la riparazione dei mezzi danneggiati o in avaria nelle missioni all'estero. Le forze armate non servono solo per spedire qualche migliaio di soldati a fare peacekeeping con fondi extra bilancio. In tutti i paesi che contano qualcosa, compresi gli Stati Uniti di Obama, sono tenute in grande considerazione e soprattutto operative, essendo una risorsa strategicamente fondamentale per la sicurezza e l'indipendenza stessa di una nazione. Sergio. Gentile direttore, una notizia che ci ricorda da che parte stanno i veri poteri economici italiani è quella relativa al costo dell'RC auto in Italia dopo la pubblicazione della relazione annuale ISVAP. Assicurare le nostre auto costa mediamente il doppio rispetto ad altri paesi dell'Unione Europea. In alcuni casi si parla di una differenza del 500% e di un aumento delle tariffe pari al 170% negli ultimi 15 anni. I rappresentanti più illustri delle compagnie assicurative si giustificano dicendo che in Italia si verificano molti più incidenti che nel resto d'Europa e molte truffe o false liquidazioni causano aumenti smisurati. Le città che hanno mostrato dal 2007 gli incrementi maggiori degli incidenti sono state Napoli, Caserta, più 23,5%, Reggio Calabria, più 17,9% e Salerno, più 17,1%. Al nord-est, tra Veneto e Friuli, vi sono le zone con meno incidenza di sinistri. Chissà perché. Nell'ex regno delle due Sicilie, i danni liquidati sono circa il doppio rispetto a ciò che accade in Padania. Il fenomeno è pressoché identico alla vergognosa vicenda delle pensioni di invalidità, che al sud è in numero doppio rispetto al nord. Forse nemmeno il federalismo fiscale sarà sufficiente a toglierci questo macigno di inefficienza. Nel caso delle assicurazioni, sussistono però responsabilità ai piani alti del governo. Un buon esecutivo non dovrebbe lasciar crescere il potere delle oligarchie, perdendone il controllo a danno dei cittadini. Ritengo infine utile proporre un'unica polizza personale anche per chi possiede più di un mezzo, ad esempio una o due auto e un ciclomotore. Il discorso è molto semplice. Ognuno di noi può guidare un solo mezzo per volta e mentre la vostra auto è in garage e voi andate in ufficio con lo scooter, la vostra compagnia incassa il premio due o tre volte senza rischiare assolutamente nulla. Per ultimo, restano le innocue e inoffensive associazioni dei consumatori, le quali emettono il loro fioco lamento di rito per poi svanire nel silenzio senza ottenere risultati. Solo un grosso partito politico o la popolazione unita potrebbero rifilare un sonoro ceffone a questo potere economico prepotente e incontrastato. Marco. Sulle intercettazioni io la penso così. Sono da pubblicare sempre e comunque. E non mi importa niente se il loro contenuto non ha rilevanza penale. Un politico a cui il popolo ha affidato il potere di governarlo, quindi di fare leggi che incidono sulla vita delle persone, ha il dovere di essere inattaccabile anche a fronte di comportamenti che non hanno niente a che fare con la giustizia penale. Negli Stati Uniti, e questi pseudo-liberali di destra li prendono ad esempio solo quando conviene, sono stati svergognati presidenti, vedi Clinton, e per altri le carriere politiche sono state troncate per comportamenti che erano ben lontani dall'avere un qualche rilievo giudiziario. Questo è il mio modesto parere. Daniele. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci.